Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 22 maggio 2015, nanotecnologie, i nanosensori vincono la battaglia con l'anidride solforosa. Sta dimostrando di poter avere applicazioni sempre più vaste e interessanti il nanosensore per anidride solforosa, che è stato messo a punto da una società italiana, la Trust Tech di Torino, su mandato del CNR di Parma e del Politecnico di Torino. Questo sensore è infatti in grado di rilevare la presenza di anidride solforosa emessa, per esempio, da una discarica o dalla decomposizione organica gestita in altri impianti, meglio di quanto finora facesse il rilevatore più efficiente a disposizione dell'uomo, cioè il nostro naso. Fino a qualche tempo fa, infatti, i rilevatori chimici più efficienti non raggiungevano il livello di sensibilità del naso umano. Ora, la nanotecnologia ha superato la natura, con indubbi vantaggi anche nella rilevazione dell'anidride solforosa nelle profondità marine, dove è spesso indice della presenza di giacimenti di idrocarburi. Fin qui la notizia del 22 maggio 2015, ma come diciamo sempre, il futuro ha radice nel presente. In questo 2012 le applicazioni delle nanotecnologie alle biotecnologie e alla meccatronica sono al centro di due appuntamenti organizzati da Trustech il 23 e il 30 maggio. Il laboratorio torinese sta lavorando su più fronti, a partire proprio dai sensori per anidride solforosa. Su una superficie microstrutturata avvertiamo una differenza di conducibilità tra due lati di una membrana, no? Quindi noi creiamo una membrana e poi siamo in grado di, previo opportuna taratura, avvertire la presenza di H2S con una sensibilità molto molto elevata, grazie proprio a questi nanowires, si chiamano, che sono insomma dei nanofili di ossido di zinco. Il naso è molto più sensibile di un sensore tradizionale attualmente in commercio, e oltretutto i sensori in commercio non sono neanche esageratamente selettivi. Noi cerchiamo di spingere le prestazioni di questo sensore verso una maggiore selettività e più che tutto verso un'alta sensibilità. In soldoni vuol dire che se io riesco ad avvertire la presenza di H2S prima del naso, magari in una discarica possono decidere di ossigenare o non ossigenare meglio, portare, chiudere o non chiudere valvole, proteggere il sistema. In un impianto invece per idrocarburi vuol anche dire sapere se c'è tanta H2S, vuol dire sapere che c'è un'atmosfera particolarmente acida che potrebbe danneggiare gli impianti, quindi provvedere magari basificando, magari prendendo degli accorgimenti in tempo. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anarita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.